mentre un treno corre via, il silenzio accompagna il mio sguardo che si perde e ritorno, e come sempre tutto poi in un istante sembra addormentarsi, tutto è polvere. Trasforma e dolcemente si riposa e vola, vola, vola più su e vola. Il freddo vuoto inimmaginabile.